soffre di meno, so solo che tu per me eri unica. Ci siamo conosciuti in estate di qualche anno fa, ma mi hai lasciato a settembre. E non servono parole, no, non mi consoleranno, forse suonare un po' mi aiuterà. So chi ci pensa di più e chi ci soffre di meno, so solo che tu per me eri unica. E ora lasciami piangere almeno per questa notte, sarà l'ultima volta che ti penso così. Cosa posso dire? Tu che mi ami non lo sai, tu con tutte quelle incertezze, ma forse capirai che ti amo davvero.